tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16:06 minuti e 15 secondi a Radio 24, pronti per le nostre due ore in diretta di RadioTube. Come sempre, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, fino alle 16 insieme per parlare di spettacoli, di attualità della rete e dalla rete. Nella prima ora parleremo molto di serie TV, tantissimo, anche perché abbiamo lasciato un discorso in sospeso la scorsa settimana. Avremo un ospite musicale e un attore insieme a noi, che però ci presenterà un progetto un po' particolare perché passa per un podcast. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola, sia su Twitter che su Instagram. Ma io comincerei con questa clip che è in inglese, ma poi vi spiego perché. Eccola qua. Hey, all you cool cats and kittens, it's me, Joel McHale. And as you're all aware, we're currently in the midst of a global pandemic, Tiger King fever. So we've gathered some of the key players for a look back at the twists and turns of the Tiger King saga, and we'll find out where their lives have taken them since the show ended. This is The Tiger King and I. All the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let them run the jungle. Let them roam their land. Then stand back and marvel. What a beautiful cat. 'Cause I saw a tiger. Allora, chi ha visto questa serie TV ha riconosciuto questo brano e ha fatto un sorriso. Chi non ha visto questa serie TV e ci ha seguito la scorsa settimana sa tutta la vicenda di Tiger King. Chi invece non ci ha ascoltato la scorsa settimana e ha fatto male, deve recuperare la puntata in podcast sull'app di Radio 24, sul sito di Radio 24. Chi non ci ha sentito la scorsa settimana, vabbè, può recuperare questa perché facciamo un brevissimo ripasso. Ve l'avevo promesso, ci saremmo ricollegati con Mattia Carzaniga. Ciao Mattia! Buongiorno, ciao Marta. Allora, caro Mattia, la scorsa settimana abbiamo detto il grande boom di questa Tiger King serie di Netflix assurda, con la storia di questo proprietario di uno zoo privato di tigri, leoni, insomma big cats li chiamano in America, grandi felini, e aspettavamo una puntata speciale che appunto è arrivata. È arrivata anche da noi, ovviamente. Vi dicevo la piccola clip che abbiamo preso in inglese perché è arrivata sottotitolata. In questo periodo, come sappiamo, è un po' impossibile doppiare. Che cosa è successo allora questa settimana con Tiger King, Mattia? Puntata speciale arrivata negli Stati Uniti la domenica di Pasqua, da noi in realtà un paio di giorni più tardi. Sì, io aspettavo che mi apparisse sulla... Anch'io, infatti ho fatto due giorni di refresh continui della piattaforma. Allora, devo dire, a dispetto delle così aspettative un po' basse, nel senso che era difficile replicare una follia come diciamo l'originale, in realtà secondo me la chiave della puntata speciale di riunire un po' dei personaggi, tranne i due protagonisti che abbiamo parlato la settimana scorsa, che sono Joe Exotic, il appunto quello che citavi tu, proprietario di Zoo, e la sua rivale, acerrima nemica, Carol Baskin, un po' degli altri personaggi riuniti come in una video call di cui ora contiene le nostre giornate e le nostre agende. Quindi il conduttore, che è questo attore comico molto noto negli Stati Uniti, si chiama Joel McHale, si sentiva anche nella vostra clip, ha fatto proprio delle chiamate via Skype, WhatsApp, quel che è, come facciamo tutti, e ha chiesto un po' ai vari personaggi sopravvissuti a carcere, varie vicissitudini, a che punto sono e come anche stanno reagendo al fenomeno mediatico di Tiger King, che è la cosa più divertente, perché scopriamo che nonostante la pandemia tutti loro vengono fermati al supermercato, abbracciati, fotografati, perché sono diventati, soprattutto negli Stati Uniti, delle celebrity, ma nel giro proprio di un weekend, da insomma, poche settimane che è uscito, già dai primissimi giorni è esplosa la febbre. Infatti la cosa assurda, per chi avesse colto appunto nell'intro di Joel McHale, che è peraltro il protagonista di una serie che Netflix ha da poco recuperato, che è Community, e della quale ha messo tutte le stagioni in primo piano, infatti è vistissima in questo periodo, perché sì, appunto è un bel recupero, è un recuperone da quarantena, sì. Ecco. Sì. Ecco, in questa clip scherzava il protagonista, perché diceva: sappiamo tutti che siamo in un momento di pandemia globale, quella per Tiger King, perché probabilmente anche Netflix si è un po' stupita di questo successo di Tiger King, tanto da dover confezionare questo speciale con gli unici mezzi a disposizione. Sì, questo è, però confermandosi anche in questo caso record, cioè già la serie è un po' da record, il fenomeno del momento, forse è la prima serie che sfrutta, dicendolo male, il momento quarantena per creare appunto questa puntata artigianale, messa su un po' di corsa, che però è forse il primo caso in una grande piattaforma di esperimento riuscito in questo senso, perché sì, è vero che instant tiene desta l'attenzione su una cosa di cui si sta parlando. Diciamo, settimana scorsa è pieno internet di meme, gif, qualsiasi parodia possibile, e sono stati bravi a sfruttare l'onda e a realizzare comunque un prodotto che tiene appunto il dibattito in corso e non fa arrestare il fenomeno. È merito anche del talento di poi cavalcare i fenomeni e non solo così casualmente, insomma inaspettatamente provocarli. Noi vi avevamo dato come compito la scorsa settimana, per chi fosse incuriosito, di guardare questa Tiger King per vedere appunto se vi piaceva il genere, perché è appunto un genere un po' particolare, non è una serie di fantasia, è un documentario che si basa su un crimine vero, anche se in questo caso il vero crimine non c'è, perché sì, ci sono dei fatti di cronaca anche pesanti, c'è qualcuno che finisce in carcere, ma si parla più che altro di tentati crimini, ma questi documentari a puntate che si basano su crimini veri piacciono molto. Mattia, intanto ti chiedo come mai secondo te questi true crime hanno un loro seguito di appassionati? Ma guarda, già citavamo qualche titolo, Wild Wild Country, ovviamente Tiger King adesso, molti altri hanno a che fare con un tale livello, tu dicevi sì, è una serie documentario, ma sfidiamo qualunque sceneggiatore ad avere una fantasia tale da organizzare personaggi, storie di questo tipo, narrazioni, storyline, come si dice, per cui c'è questa realtà talmente folle che ti acchiappa all'istante, e poi una follia che forse ti preserva da in questo momento in particolare dall'impazzimento totale, nel senso che vedi queste storie totalmente matte e in qualche modo ciò ti preserva dalla tua stessa follia, credo. Sì. E poi c'è sempre quello che già dicevamo, a me quello che affascina da spettatore, io non sono un appassionato di cronaca nera, non seguo i programmi alla Chi l'ha visto, però questi documentari hanno la capacità di portarti su piste continuamente nuove, per cui è davvero come guardare un film di genere cosiddetto, cioè non diventa più neanche il documentario di cronaca, ma un racconto che sembra di finzione, perché ogni volta apre una pista diversa, un personaggio diverso, un crimine diverso, perché appunto dal Tiger King la pista principale riguarda il protagonista contro questa Carol, personaggio anche epico lei stessa, e però questa Carol ha altri segreti nell'armadio e quindi poi subito stai appresso a quelli, e quindi diventa un racconto che si alimenta continuamente di nuove strade, di nuove narrazioni, e credo che questo sia anche il merito di chi li confeziona, di lavorare in questo senso, perché ormai, ecco, se un limite dobbiamo trovarlo è che tutti un po' si assomigliano, è diventata un modo di scrittura, di montaggio, che in qualche modo forse il primo è stato Making a Murderer, che è stato il primo fenomeno proprio globale di true crime documentario, sempre su Netflix, molto, molto forte, molto anche così, che ti tiene proprio, che ti tiene aggrappato a questa vicenda di cronaca nera, anche quella non conclusa, quindi con anche questa aspettativa che viene disattesa continuamente. Tutti, devo dire, oggi tendono a quel tipo di racconto, e quindi, ecco, se c'è forse un difetto è che la narrazione sta diventando essa stessa un genere con le regole precise, e tutti le rispettano in modo a volte po' pedante, diciamo. Allora, facciamo una cosa, Mattia. Dopo la pausa sentiamo un po' se ci sono alcuni true crime che vale la pena recuperare. Io ti posso dire qual è, secondo me, il mio il difetto per me è che io poi non ci dormo la notte, perché so che sono veri. Le finzioni no, ma questi mi mettono un'angoscia indicibile. Traffico e poi siamo ancora insieme. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi. E puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Radio Tube Social Village. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. Los cadáveres de 3 jóvenes han sido hallados hace unas horas en Valencia. Fue una auténtica locura. No piensa que he hecho yo. Allora, facciamo un'unione di temi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del boom delle serie spagnole. Abbiamo parlato di questi true crime che appassionano tantissimo gli appassionati di serie. Appassionano gli appassionati, vabbè, concedetemi questo imbroglio. Mettiamo tutto insieme. Mattia Carzaniga, cosa otteniamo? Otteniamo, ho fatto i compiti anch'io, perché ci siamo. Bisogna anche aiutarsi con questo algoritmo che non ti mostra le cose necessariamente, devi un po' andartene a cercare. Tu mi hai aiutato a scoprire questo. A mia volta sono stata aiutata da Anna Rita D'Ambrosio, che è stata aiutata dal nostro amico Adriano Palazzolo, che le ha segnalato, e lei mi ha segnalato, io ti ho segnalato Le ragazze di Alcácer. Beh, a me è piaciuta. Esatto, così, Allora, io ne ho vista una puntata, andrò avanti. Mi piace molto la chiave, si può dire che, insomma, la commentavamo in altra sede, di tutto il fenomeno mediatico che c'è attorno. Questo è molto divertente, insomma, si passi l'aggettivo, diciamo, avvincente, quanto un paese, come è successo con dei casi nostri di cronaca che hanno tenuto davvero in scacco l'attenzione di un'intera comunità. Questo lo racconta molto bene, perché forse è stato uno dei primi casi mediatici in Spagna di questa scomparsa di queste ragazze, insomma, vicende che riguardano queste ragazze, senza spoilerare troppo, che però tiene appunto l'attenzione sui media dell'intero paese bestissima, e anzi qua io faccio un appello all'Italia di tirare fuori i true crime italiani, che noi siamo invece, certo, siamo scarsi da questo punto di vista, usando anche queste piattaforme che danno la possibilità di, così, appunto, come diciamo prima, montare, realizzare, scrivere prodotti di questo tipo. Sono diventati un genere ormai a sé, il true crime documentario che si vedono su Netflix e simili, provare la strada anche all'italiana, perché appunto c'è la Spagna, un amico che vive in Francia mi ha suggerito, l'ho visto, è molto, ti tiene anche quello proprio attaccato alla storia, si chiama Grégory ed è la storia della scomparsa di un bambino. Noi non la ricordiamo, ma in Francia è stato un caso così clamoroso che ha coinvolto tutta la nazione. Sono delle storie local cosiddette che però insomma riguardano la cronaca un po' di tutto il mondo, ne abbiamo viste tante anche da noi, e quindi chiedo se qualcuno è in ascolto che possa fare questo lavoro di pensare, studiare, magari tirare anche fuori dei vecchi casi che abbiamo dimenticato. E, certo, anche perché poi questi casi a volte vengono riaperti, a volte a parte che ci riportano alla memoria, dibattiti, e poi ti fanno così riflettere sui processi, sul... E poi è sempre nostalgia, sì. Noi adesso c'è questo grande revival degli anni 90, vecchi casi di cronaca nera anni 90 secondo me ci riportano, certo, con la memoria. Ricordo un'estate, non saprei dire l'anno, in cui ci fu una serie di morte ammazzate, poverette, in Italia, una dopo l'altra. Io ricordo che ero in vacanza con i miei genitori e si aprivano le pagine dei quotidiani e c'erano sempre, io ragazzino, e lì sì che era abbastanza terrorizzante. Poi c'era il mostro di Foligno, insomma, quegli anni lì, ma perché non raccontarli in una bella serie true crime all'italiana, che secondo me in questo momento fa il caso nostro. Sì, sì, anche perché non è allora la nostalgia, andatela a raccontare ai parenti dei morti. No, ma forse non hai capito il genere, non sono né morbosi né... No, la nostalgia è perché ci riportano a un modo giornalistico, televisivo, i telegiornali dell'epoca. No, assolutamente non c'è né morbosità, non... anzi c'è la condanna spesso di come la televisione, i mezzi di comunicazione hanno raccontato. E sono delle indagini spesso molto ben fatte. Ad esempio, e sono anche, come dicevamo, da Tiger King a tutti quanti, una serie di trattati di sociologia quasi, che raccontano veramente un paese in quel momento. Per cui oggi Tiger King racconta precisamente il, abbiamo detto, white trash americano di provincia, le ragazze spagnole raccontano quel modo anche dell'esplosione mediatica della TV spagnola in quella fase, e da noi ci potrebbe essere un'altra pista per raccontare sì, con nostalgia dei tempi più che delle storie. È evidente che non, nessuno vuole così avere nostalgia del sangue, ma sono d'accordo con te, non è questo il punto. Il punto è... No, però sai qual è il problema? È evidente, ma le dita sul telefonino per mandare il messaggio cattivo vanno veloci. E quindi certo, bisogna sempre specificare, anche se insomma mi sembra... da come la raccontate leggo tanta morbosità. No, assolutamente no. Non saprei per quale altro motivo uno guarda questi programmi, perché sono delle ricostruzioni interessantissime. Non facciamo una cosa, ma vi prego, allora no, tutto, andate a vederlo. Sì, primo, secondo, ecco. Diciamo che se vale come caso italiano, si citava Chi l'ha visto, si può citare Franca Leosini, c'è un certo tipo di racconto crime che da noi fa molto la TV pubblica in un altro modo, con un altro modo di impaginare, di montare, di scrivere. Però diamo per assodato che è lontano dalla morbosità, è un racconto appunto anche di costume, sociologia, psicologia. Sì, e sì, insomma, sì. Dovremmo essere abbastanza, non dico smaliziati su questo, ma sì, anche un po' onesti nel non voler sempre vedere il cattivo e il morboso negli occhi degli altri. Non, no, assolutamente no. Anzi, ma tant'è che dicevamo di Tiger King, è la storia di un cattivo, ma con cui mezzo mondo ha empatizzato. Esatto, perché non c'è neanche il crimine, e non c'è il crimine. Esatto. Non c'è, c'è un'inchiesta, ma di fatto il crimine non c'è, perché non è avvenuto. Tra l'altro, se andate a vedere Le ragazze di Alcasser, è una grande condanna della TV spazzatura e della nascita della TV spazzatura. Quindi è esattamente l'opposto di quello di cui avete... Comunque, se abbiamo 30 secondi, torno agli Stati Uniti per una serie invece che è su Amazon Prime, che se no si cita sempre Netflix e poi dirà Netflix, su Amazon Prime c'è una serie uscita l'anno scorso e rimasta un po' invisibile da noi, su Lorena Bobbitt, che tutti ricorderete, il famoso caso dell'evirazione del marito, che in realtà anche quella non c'entra nulla con la storia morbosa di quel crimine, ma è un racconto di quegli anni, degli anni 90 americani, e del ruolo delle donne spesso nella società, nella famiglia, nella cultura di un paese. E quindi si chiama Lorena, come lei, come Lorena Bobbitt. Sono poche puntate, non ricordo se 4 o 5 puntate, su Amazon Prime si trova, ed è il racconto davvero di una nazione in quel momento, un trattamento mediatico di questa storia che da noi appunto è rimasta impressa per il suo dato anche cruento, certo, sicuramente, certo, ma che non riguarda nulla di tutto ciò che può essere morbosità, cronaca nera, impicciona, nulla di tutto ciò, ma anzi, usando anche interviste recenti alla protagonista che si è fatta intervistare per la serie, è davvero il racconto di un paese e la sociologia di un popolo in quel momento. È molto interessante. Sì, Lorena, sì, sì, su Amazon Prime Video. Allora andiamo invece a scoprire un pezzettino di una serie che è appena iniziata su Sky. La più potente delle armi del nostro tempo non è il fucile, non è il carro armato, non è l'artiglieria. È la finanza. Ti posso parlare? Se si tratta della mia promozione. Sono praticamente certo che la avrai. Ma c'è un problema. Se non ottieni quel posto, lo avrà Ed Stewart. Indebolisce lui, rafforzi te stesso. Questa guerra fra voi deve finire. Lo sai che cosa potrebbero farti? Promettimi che non farai niente di stupido. Voglio che tu faccia in modo che un'informazione diventi virale. Allora, stiamo parlando di Diavoli, che è partita ieri sera su Sky, ovviamente poi sempre disponibile sull'on demand di Sky, con Patrick Dempsey, quindi grande star Grey's Anatomy, con Alessandro Borghi, una serie tratta dal romanzo di Guido Maria Brera sullo sfondo della finanza. Mattia, cosa diciamo di questa Diavoli? Bisogna shortare, qualunque cosa significhi, sì, loro shortano. Sì, ci sono dei termini. Che... quando c'è qualcosa di oscuro, bisogna shortare. No, allora è un racconto. Sono partite ieri le prime puntate, è iniziata ieri. Tiene insieme, credo, con abilità un racconto appunto classico, popolare, di personaggi, di squali, di doppio giochi, eccetera, eccetera, con un po' questo sfondo della finanza, for dummies abbastanza, cioè così spiegato anche a chi non ne capisce troppo, in modo però non sciocco, anzi, insomma, portandoti un po' in queste grandi banche. Siamo a Londra, nella fattispecie, c'è Patrick Dempsey, amministratore delegato della banca, e Alessandro Borghi, italiano, che da tanti anni vive a Londra e che ha fatto questa scalata dal niente, è diventato il suo delfino, ma forse è uno squalo a sua volta, e ha in ballo una serie di traffici che riguardano l'economia globale. Siamo nel 2010-2011, grande recessione. La cosa che mi ha anche lì, un po' documentaristica, che mi ha fatto anche un po' riflettere, è quanto ci sono tante immagini d'archivio, e sono pochi anni fa, sono 10 anni fa, sembra un passato lontanissimo, certo, vedere figure come Dominique Strauss-Kahn, tutto il discorso sui PIGS, i paesi con il deficit, tra cui noi in Europa, una serie di riferimenti molto vicini, ma che sembrano veramente lontanissimi, che fanno appunto da sfondo a dinamiche poi che sono molto umane, sentimentali, di riscatto sociale. Sono molto bravi, Borghi in particolare, se lo vedete, come vi consiglio in originale, ha un inglese impeccabile, ma al di là di quello sostiene questo ruolo come sa sempre fare. Lo trovo un racconto popolare, intelligente, che insomma non, che questi tempi non, male non ci fa, anzi un intrattenimento che funziona. Allora, facciamo una cosa. C'è stata questa conferenza stampa di presentazione, ovviamente virtuale, eravamo tutti collegati via Zoom, perché al momento questo si può fare. C'è un aspetto molto interessante che ha raccontato il protagonista Alessandro Borghi, che recita in inglese, peraltro è doppiato in italiano non da se stesso. Questa internazionalità della serie, lui non sembra per niente un attore italiano, ma sentiamo come l'ha spiegata lui, Alessandro Borghi. Ho sempre pensato a Massimo come un personaggio che avesse ripudiato le sue origini, le avesse messe da parte, perché queste origini gli avevano fatto male attraverso questo padre che non si era comportato bene con lui, quindi le avesse accantonate, e inizia di nuovo ad averci a che fare quando appunto se le ritrova davanti agli occhi. Credo allo stesso modo che le sue origini agiscano in una maniera, e l'ho già detta questa cosa, adesso che ci penso la ribadisco, agiscano in una maniera quasi inconscia. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi, per esempio sul set c'erano tantissimi attori che venivano da diverse parti del mondo, e ognuno di noi aveva un approccio diverso al lavoro, al personaggio, insomma. Ecco, è come se la mia italianità, quella di Alessandro, attore, in un contesto di grandissimi attori internazionali, avesse agito allo stesso modo anche nel Massimo Ruggero, che è il protagonista della serie, uno che aveva uno schermo dove non lasciava trasparire nulla, quando invece poi questo controllo e questa sicurezza si sgretolano, è lì che entra in gioco l'emotività e l'italianità. Allora, Mattia, tu che peraltro hai incontrato Alessandro Borghi facendogli un'intervista per Rolling Stone molto particolare, perché si è fatto lui la foto. Cioè il servizio fotografico. C'era una copertina da mettere in piedi. Lui è uno, oltre che bravo, bello indubbiamente, ma molto simpatico, eppure fotografo. Quindi, con l'aiuto, poi si è svelato, della sua fidanzata che è con lui in casa, hanno realizzato un servizio meglio di certi shooting di fotografi veri e propri. Lo trovate su Rolling Stone in digitale, online, su YouTube Rolling Stone. E quindi sì, sono anche modi per così continuare a fare questo mestiere nonostante il lockdown. Sì, si è dovuto arrangiare, ha fatto anche veramente delle belle foto. Cosa pensi di questo suo essere attore internazionale? Non lo so che sembra che stiamo parlando, cioè che come dicevano in Boris, grazie per non essere così italiano, ma lui è veramente un attore di caratura internazionale ormai. Ma guarda, io credo che della fase di maturità, diciamo così, della serialità italiana faccia parte anche questo. Prima di parlare di lui, una piccola cosa, cerco di non troppo tecnica: tra i produttori, oltre a Sky, c'è Lux Vide, che è la casa di produzione delle fiction dei Santi, per intenderci, certo. Di Don Matteo, dell'ultimo successo clamoroso su Rai 1, Doc, che ha fatto picchi di share molto significativi il giovedì, credo vada in onda. È riuscita a, insomma, quindi molto italiana e molto Rai, per capirci, in associazione con Sky. È interessante vedere come davvero, dicevo, dell'essere matura la serialità italiana, anche la possibilità di mettere insieme il mondo italiano e il mondo internazionale, certo, con un occhio a un mercato molto più ampio, e usando anche attori di conseguenza che siano molto italiani, perché Borghi resta insomma una faccia, i ruoli che ha avuto, da Stefano Cucchi a Suburra, è molto italiano, se non molto romano, come gli criticano molti. Ma inserito in un contesto internazionale in cui non solo è credibile, ma sembra proprio tagliato per quella parte. Quindi credo che tutto vada un po' insieme: un discorso di produzione, un discorso di star system che un po' si è rinnovato negli anni, per cui fino a davvero pochi anni fa, 5-6 anni fa, Borghi non esisteva, e oggi invece è a tutti gli effetti una star che possiamo giocarci anche sul mercato internazionale. C'è Kasia Smutniak, che è un volto anche del cinema non internazionale, però è arrivata in tante produzioni da perfetti sconosciuti, che ha girato il mondo, certo, a campagne, certo, pubblicità, moda, insomma, volti che sempre più riescono a giocare su una scacchiera un po' più ampia. Non è Gomorra, non è Nicola Ammaniti, è un altro tipo di produzione, dicevo anche prima, più popolare, con un racconto anche più classico, però io dico sempre avercene in questi casi, cioè di racconti che facciano tenere insieme appunto volti, storie, un contesto che sta un po' tra la fantasia e l'attualità, ma che in qualche modo ti tiene incuriosito rispetto a una materia che è comunque un po' ostica, nessuno di noi proprio smania per vedere una serie sulla finanza internazionale, eppure invece in questo caso stai un po' a guardarti tutte le vicende che riguardano questi banchieri di lusso. Vero, c'è anche un giallo e vi assicuro che non siamo morbosi, è una cosa che... Mattia, devo salutarti con un messaggio che è arrivato da Enrico da Toronto. Enrico, spiegaci come si sta a Toronto, sono curiosa. Che però su Tiger King dice: gli è piaciuto, per la verità il crimine c'è, altrimenti non sarebbe dov'è. Ma non possiamo spoilerare, Enrico, diciamocelo tra di noi. Già non si può. Con i crimini di mezzo proprio spoilerare. Non possiamo spoilerare. Esatto. Grazie a Mattia Carzaniga. Grazie a presto, Mattia. A presto, ciao. A Marta. Presto, brevissima pausa, poi saremo insieme con un po' di musica. Radio Tube Social Village. Allora, mi stavo offendendo perché un ascoltatore al 349-238-6666 scrive: 22.000 morti, ancora continuate a mandare in onda questa gallina che parla del Grande Fratello. Però due messaggi prima vedo che questo ascoltatore ha augurato a Gianluca Nicoletti di arrivare in terapia intensiva a causa del coronavirus, quindi è tutto sotto controllo, siamo tutti molto sereni, anche oggi la serenità... Però, allora, facciamo una cosa, rassereniamo gli animi. E non solo ci diamo a un po' di musica, ma anche a incontrare una persona veramente carina, una persona con la testa sulle spalle, che esce con un nuovo singolo che ha anche un bel titolo, eccolo qua. Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino. Mi accetti per quello che sono, mi senti per quello che suono. E ora che giorno per giorno ci metto il mio istinto, l'impegno, esiste soltanto averti accanto ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà, e se cambierà vale anche perdonare, perdonare. Non è mai facile, rialziamoci da terra, ripartiamo. È uscito a sorpresa, è un pezzo che ha una grande importanza, con un video che ha una grande importanza. Perdonare, già il verbo è perfetto. Voglio sapere tutto da Neck. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao, grazie molto. Allora Filippo, una sorpresa, come mai? Come mai? Perché ne avevo bisogno. Nel senso che io faccio musica perché altro non so fare, perché mi tiene vivo, è la mia passione, è quello che faccio da più di 30 anni e non avevo assolutamente intenzione di fermarmi in questa occasione. Sarebbe stato un peso per me rimanere fermo, non so, il fatto di riuscire a condividere e di rimettermi in movimento mi alleggerisce il peso, e anche se ognuno di noi ha un futuro incerto per quel che riguarda la sua attività, chi nel suo piccolo naturalmente, già il fatto di mettermi in movimento mi dà una speranza in più. Sono d'accordo con te. Allora, eri in diretta su Instagram e hai dato questo annuncio. Come mai hai scelto questa modalità? Perché è una cosa che arriva subito, è arrivata subito ai tuoi fedeli. Perché mai come in questo momento i social probabilmente hanno come posso dire, sono usati nel migliore dei modi. Prima, probabilmente, prima di questo marasma generale, abusavamo dei social e usavamo troppo i social. Adesso è un modo per sentirci vicini, pur essendo ognuno in posti diversi. Ed è forse la giusta utilità che i social avvicinino e accorciano le distanze, no? Facciano salutare marito e moglie che si trovano in due posti diversi, o il cantante con il suo pubblico, o i figli con i genitori. È questo fondamentalmente. Allora ho reputato che fare una sorpresa alla gente attraverso i social fosse la cosa migliore. Tra l'altro tu stavi lavorando, perché noi ci eravamo incontrati, avevi iniziato un lavoro anche complesso di registrazione, la preparazione di date importanti, e quindi tutti ci siamo dovuti congelare nei nostri progetti in questo periodo. Purtroppo sì. Io avevo, prima dell'avvento di questo virus e del blocco, diciamo così, io ho affrontato un tour e nel frattempo scrivevo. Ancora prima di partire in tour avevo messo insieme i pezzi per questo album, e quindi sto cercando in breve tempo di mettere insieme tutto, perché ti do questa notizia: il 29 di maggio esce la seconda parte del mio gioco preferito. Ce l'ho fatta. Oh. Ho messo insieme una roba che normalmente viene messa insieme usando mesi. Questo significa che la tecnologia ci è venuta in soccorso, che l'impegno dei miei collaboratori è fondamentale, che l'entusiasmo del pubblico mi sta dando energia per farlo. Adesso torno a Perdonare. Il Perdonare è un pezzo scritto 8 mesi fa, ma che può essere tranquillamente sentito, ascoltato in un contesto come quello che stiamo vivendo oggi. Perché parla di valori fondamentali, perché parla di valori importanti, perché? Guarda, Perdonare racconta la vita di due persone che si trovano a fare un grande sforzo, un grande atto di coraggio, secondo me, che è proprio perdonare l'uno i torti dell'altro. Credo che questo sia una grande dimostrazione di umanità, di amore. È un atto di forza che, secondo me, contrariamente a quello che pensa il mondo, è straordinario. Ed è liberatorio, perché liberi proprio il tuo animo, liberi te stesso. Naturalmente non è semplice, è complicato, specie se i torti sono gravi. Però ognuno di noi si è trovato, no, a perdonare, ad essere perdonato. E il piacere che si prova quando si perdona o quando si è perdonati è un piacere nuovo. È qualcosa che è come se tu ti liberassi di un peso, è come se tu iniziassi a respirare meglio, perlomeno a me ha dato questa sensazione. E quindi questo è quanto, fondamentalmente, la spiegazione alla tua domanda. No, e poi con degli autori di cui ti sei circondato, alcuni sono dei grandi amici di Radio 24, come Valerio Carboni, come Giulia Anania, insomma. Bravissima, ecco, José Luis Pagán, Diego Cantero, tra l'altro sono due internazionali, uno è un produttore, ha lavorato anche con J-Lo ed è argentino, e l'altro è spagnolo e si fa chiamare con lo pseudonimo di Funambulista ed è molto conosciuto in Spagna. Sono tutti amici. Bello. Hai detto uscire è un atto di coraggio adesso, però, con un secondo album, perché in tanti hanno detto rimandiamo. Ci avevo pensato anch'io, però questo mi ha generato inquietudine in me, fastidio. Io naturalmente mi sono ho condiviso questa mia necessità con il mio gruppo di lavoro, e devo dire che sono stati bravissimi, perché hanno messo in esecuzione, hanno cercato di fare in modo che il mio desiderio diventasse realtà. Ma perché io faccio questa cosa? Perché sono un mercenario? No, io ho risposto a questa domanda che mi sono fatto, la stessa che hai fatto tu a me. Però io mi sento vivo se faccio questo. Poi viene tutto il resto, poi vengono le vendite dei dischi che non si vendono più, poi vengono le classifiche, poi viene... questo non deve superare l'affetto della gente, questo non deve, come posso dire, passare sopra l'intento primario che è il mio, che è quello di esserci, è quello di fare musica, è quello di dialogare con la gente, è quello di condividere con le persone. Dopo viene tutto il resto. I tour sono fermi, tante persone non possono lavorare, è un momento difficile anche per noi per far capire che cos'è l'industria della musica, la filiera della musica. Non è solo il cantante che non si può esibire, il pubblico che soffrirà per non vedere un cantante, è molto di più. Certo, il mondo della musica come il mondo dell'imprenditoria, come il mondo del turismo, come il mondo del commercio. Diciamo che siamo tutti sulla stessa barca e che ognuno deve riorganizzare la sua vita. Non c'è dubbio che la costante sia riprogrammare tutto, anche il mondo dell'entertainment, il mondo della comunicazione. Vedi quello che sta succedendo tra me e te in questo momento. Stiamo parlando su Skype, normalmente ci saremmo visti. Tu saresti venuta da me o io sarei venuto da te in studio. Normalmente questa era la prassi, a meno che non ci fossero dei problemi di forza maggiore che avrebbero costretto me a parlarti telefonicamente, tu o a considerare questo metodo. Però un po' tutte gli ambienti sono messi a dura prova. Io ho fiducia che tutto questo riprogrammato in un certo modo può essere che torni anche meglio di prima. Io non posso dire che i cambiamenti, non mi sento di dire che il cambiamento è qualcosa di negativo. Può essere, è come quando uno, tornando al discorso del perdonare, quando uno perdona qualcun altro, quindi ha subito un torto e riparte l'amicizia, non sarà mai la stessa amicizia di prima, o non sarà mai lo stesso rapporto amoroso di prima. Potrebbe essere più forte di prima, potrebbe essere migliore di prima, con una consapevolezza diversa. Ecco, la stessa cosa vale per gli ambienti lavorativi. Speriamo. Voglio concludere ancora su perdonare, perché è importante il video. Ecco, vedi, il video lì è... Io sono una piccola cornice all'interno di quello che hanno fatto la maggior parte delle persone che sono riuscito a includere in un video di 4 minuti, di una canzone di 4 minuti. Sono arrivati mille contributi. Ancora oggi qualche video arriva. Io ho chiuso la deadline della ricerca dei contributi, era il sabato scorso, e stanno ancora arrivando oggi. Quindi c'è proprio voglia di sentirsi parte di questa grande famiglia. Quindi hai citato il video, che è semplicemente la volontà di tanti, di leggerezza, di cercare questa speranza. Scusa se sono stato prolisso. No, è giusto spiegarlo. Allora Filippo, io ti do appuntamento all'uscita dell'album. Speriamo di persona, 29 maggio. Speriamo di vederci in quell'occasione. Ecco, speriamo di persona. Un abbraccio forte a distanza per ora e ci godiamo Perdonare, perché è stata veramente una bella sorpresa per tutti. Grazie Filippo. Ciao. Ciao a tutti. Grazie Filippo, no. Ciao. Radio Tube Social Village. Tre potenti della città, per chiedergli il favore personale di nominarmi suo luogotenente, gli si sono spesso scappellati davanti. E in fede mia, io conosco il mio prezzo. Io so di non valere un posto peggiore. Ma lui, tutto preso dalla sua ambizione e dai suoi piani, li frastorna con discorsi roboanti, orribilmente inseppati di epiteti di guerra, e a farla breve, respinge i miei mediatori. Il fatto è, dice, che ho già scelto il mio ufficiale. I grandi classici per una volta in chiave pop. Impariamo a conoscere i grandi classici raccontati in un modo davvero, davvero particolare. Cominciamo con questo dedicato ai cattivi, ne parliamo con Francesco Montanari. Ciao Francesco! Ciao Marta, come stai? Come stai? Stiamo ascoltando i podcast. Esatto. Ecco, stiamo ascoltando i podcast. Francesco, posso chiederti com'è nata quest'idea di fare un podcast, che peraltro adesso è in classifica tra i più ascoltati su Spotify, sì, per raccontare i grandi classici? Ma guarda, in realtà nasce tutto perché per il fratellino di mia moglie, che è mio cognato fondamentalmente, no? Che lui ha 12 anni, Perché noi leggiamo da quando è cominciato questo lockdown, questa quarantena, lui si trova a Rimini, quindi insomma ci vediamo su Skype la sera e praticamente leggiamo dei testi che lui piace, perché lui studia teatro, gli piace tanto così, no? Allora studia, e leggevamo proprio Otello. A un certo punto io stavo raccontando a lui un po' la storia di Otello, perché subito a dire Iago è uno stronzo, Iago è una merda, io dicevo no, vabbè, ho capito, aspetta un attimo, cioè parliamone, capiamo un po' a fondo. E allora giustamente Andrea, che ha sempre delle idee lungimiranti, mi ha detto ma perché non fai un podcast dove metti proprio questo punto di vista? E mi ha presentato Leonardo Carioti, che è il grandissimo regista del podcast, bravissimo, senza di lui sarei perso, nonché coautore. E io ho detto vabbè, facciamo questa cosa, la chiamiamo Dedicato ai cattivi, perché in effetti poi ho capito che, perché io sai mi occupo di questi studi chiaramente facendo l'attore, quindi magari risfoglio sempre, no, dei testi più o meno sacri, diciamo, di qua di là, però giustamente la maggior parte delle persone questi testi li ha conosciuti a scuola, se li ha conosciuti, e quindi non se li ricorda più, ammesso e concesso che li abbia mai letti, però se non li ha letti sa quello che sappiamo tutto, no? Che sappiamo tutti, quindi per stereotipo, e quindi pensa, che ne so, in caso di Otello, pensa che Otello sia la vittima, Iago il carnefice, bla, e basta, oppure Amleto, oppure Romeo e Giulietta, la commedia dell'amore, di qua di là, invece sono tutte cose che ti rimangono, ma in realtà non sono realmente così. Quindi il tentativo è, come dire, levare il piedistallo dell'autore, della cultura, che tutti pensano che sia una noia mortale, quando magari far vedere che quanto veramente parli di noi, in maniera molto divertente, anche piena di, perché ragazzi i classici sono pieni di gossip. Cioè, bella questa. Ma pieni, cioè il gossip ha preso veramente dai classici. Allora, devo dire che in questo la scuola ha fatto un po' di danni, perché spesso ci spiegano le cose o nell'età sbagliata, oppure abbiamo dei ricordi noi di un po', vale la pena riprenderli anche da grandi. È vero, guarda, io ti dico, la scuola poverina c'ha un bruttissimo compito. Dai, poverina, spezziamo una lancia a favore della scuola. Cioè, la scuola è... Poi adesso, figuriamoci. Cioè, se partiamo dal presupposto che qualsiasi cosa che ci viene imposta noi la odiamo per rigetto, è chiaro che qualsiasi cosa, no? La scuola come fa male, no? È chiaro che la scuola, come diceva Italo Calvino nell'importanza di leggere i classici, ti deve comunque offrire un tot di numero di testi che magari un domani, quando tu avrai dimenticato le sofferenze della scuola, ma sarai un essere umano indipendente, magari ti rimbatti in quei titoli e cominci ad amarli, diventano i tuoi libri, no? Che poi fondamentalmente un libro è un'esperienza, non è niente di più, niente di meno. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che penso che per leggere certi libri, cioè per capire certi libri devi, per amare certi libri fino in fondo devi avere un'esperienza di vita che molto spesso a quell'età non hai, no? Cioè secondo me far leggere i grandi russi in questa nostra epoca è sbagliatissimo al liceo, perché al liceo hai soltanto la reazione del rigetto totale, perché Delitto e Castigo è un libro che io adoro tantissimo, Dostoevskij se vuoi è più banale, però è un libro che a 16 anni è una mattonata inutile, cioè non riesci proprio a porti il problema, no? Quindi questa è una cosa importante, però è vero pure che io consiglio tanto una lettura disinteressata, senza pensare che dovete imparare qualcosa o che dovete giudicare qualcuno, semplicemente perché un libro è come una persona, quindi è una relazione d'amore. Se la relazione non va, non va, perché i libri possono anche essere non finiti. Questo è un segreto che guarda, quando me l'hanno detto mi sono veramente rassicurato. Credo questo, un po' come Califano, no? Mi rivolsi a un libro come una persona. Voglio dirti qualcosa dell'idea del podcast, cioè proprio del concetto di podcast, quanto l'ascoltare ci possa avvicinare appunto alla lettura oppure alla cultura. Parola raccontata, la parola ascoltata adesso è importante. Sì. Guarda, io ho fatto tanti audiolibri per Emmons Edizioni e devo dirti che non sapevo, ma prima del coronavirus il mercato degli audiolibri era cresciuto del 15.000% in 5 anni, che è un numero spaventoso, perché evidentemente le persone quando corrono, quando vanno in macchina, tu a un certo punto sei solo con te stesso, non devi pensare più a niente, parti in questo viaggio. Dedicato ai cattivi, però Otello solo il primo, perché si va avanti poi? E poi cominci, ma sai, Dedicato ai cattivi c'è una tale possibilità, insomma c'è sempre un punto di vista importante, no? Perché nessuno agisce mai perché è sciocco, qualcuno agisce sempre portando avanti le sue motivazioni, e chiaramente io da attore questa cosa ce l'ho un po' nel mio DNA, perché quando devo fare un personaggio non posso mettere il mio giudizio di Francesco, no? Devo levarlo, perché altrimenti non potrei sposarlo, e quindi però sposo il punto di vista del personaggio, e questo mi piace, mi diverto come cioè come un'analisi che fa un attore di un testo in maniera molto semplice, molto concreta e molto fruibile, è la stessa analisi che cerco di portare uno spettatore. Bello, bello, mi piace questo ripasso dei classici anche con questa grande partecipazione emotiva oltre che da attore. Francesco, allora, dedicato ai cattivi, andatelo a trovare su Spotify, tanto è in cima a tutte le classifiche. Ci tengo tanto a ringraziare Leonardo Carioti, che registra del podcast, perché veramente ha sposato assolutamente il progetto con il massimo entusiasmo che possa essere possibile. Scusate le S, quante S in questa frase, però grazie Leo e grazie a te, grazie a tutti. Francesco, grazie a Francesco Montanari per essere stato con noi, a prestissimo. Ciao, ciao, ciao.